ma sin dal giorno dopo mi toccò andare a dormire in albergo e sapevo in anticipo che fatalmente vi avrei trovato la tristezza. Era come un aroma irrespirabile che fin dalla mia nascita esalava per me ogni camera nuova, vale a dire ogni camera. In quella dove abitavo di solito, io non ero presente. Il mio pensiero restava altrove e al suo posto mandava soltanto l'abitudine. Ma non potevo incaricare questa assistente meno sensibile di occuparsi dei miei affari in una nuova località dove la precedevo, dove arrivavo da solo, dove ero costretto a mettere in contatto con le cose quell'io che ritrovavo soltanto a intervalli di anni, ma sempre immutato, non essendo più cresciuto dai tempi di Combray, dai tempi del mio primo arrivo a Balbec, piangente, inconsolabile, sull'angolo di un baule disfatto. Ebbene, mi ero sbagliato. Non ebbi il tempo di essere triste, perché non rimasi solo neppure per un istante. Dell'antico palazzo era sopravvissuto, infatti, un eccesso di lusso che, inutilizzabile in un albergo moderno e avulso da qualsiasi destinazione pratica, aveva assunto, nell'inoperosità, una sorta di vita autonoma. Corridoi che tornavano sui propri passi e di cui si incrociavano di continuo i vani andirivieni, vestiboli lunghi come gallerie e arredati come salotti che avevano l'aria di abitare lì piuttosto che di far parte dell'abitazione, che non si erano lasciati incorporare in questo, in quell'appartamento, ma s'aggiravano intorno al mio e vennero subito ad offrirmi la loro compagnia, sorta di vicini oziosi ma non chiassosi, di fantasmi subalterni del passato cui fosse stato concesso di sostare silenziosamente davanti alle porte delle camere occupate dai clienti e che ogni volta che li trovavo sulla mia strada mi dimostravano una tacita premura. Insomma, l'idea di un alloggio come semplice contenitore della nostra esistenza attuale, destinato solo a difenderci dal freddo e dall'altrui vista, era assolutamente inapplicabile a quell'albergo, complesso di stanze non meno reali di una colonia di persone, la cui vita, ancorché silenziosa, si era in ogni caso costretti ad incontrare, ad evitare, ad accogliere ogni volta che vi si tornava. Si era indotti a non disturbare, né si poteva guardare senza rispetto il salone che sin dal XVIII secolo aveva preso l'abitudine di stendersi fra le sue pareti d'oro vecchio sotto le nuvole del suo soffitto affrescato. E una curiosità più confidenziale si provava per i salottini che gli correvano tutto intorno senza minimamente curarsi della simmetria. Innumerevoli, stupefatti, in fuga disordinata sino al giardino verso il quale scendevano con tanto agio grazie a 3 gradini sbrecciati. Se volevo uscire o rientrare senza servirmi dell'ascensore e senza essere visto sullo scalone, una scala più piccola, privata, non più in uso, mi porgeva i suoi gradini posati l'uno dopo l'altro con tanta vedutezza che sembrava vi fosse, nel loro digradare, una proporzione perfetta, simile a quella che nei colori, nei profumi, nei sapori risvegliano a volte in noi una sensualità particolare. Ma quella che si ridesta salendo o scendendo una scala, avevo dovuto venir fin lì per conoscerla, come un tempo c'era voluto una località alpestre per scoprire che l'atto abitualmente inavvertito di respirare può essere un'ininterrotta voluttà. Mi venne offerta quell'esenzione dallo sforzo che ci concedono solo gli oggetti con i quali abbiamo una lunga consuetudine d'uso. Quando posai per la prima volta il piede su quei gradini, già familiari prima di essere conosciuti, come se possedessero, depositata forse, incorporata in essi dai padroni che un tempo vi si affidavano ogni giorno, l'anticipata dolcezza di abitudini che non avevo ancora contratte e che non avrebbero potuto non affievolirsi quando fossero diventate mie. Varcai la soglia di una camera, la doppia porta si richiuse dietro di me, i tendaggi fecero entrare un silenzio sul quale sentii di esercitare una sorta di inebriante potere regale, un camino di marmo adorno di rami incisi, cui si sarebbe fatto un torto pensando che si limitasse a fornire un esempio di arte direttorio, mi offriva del fuoco, e una poltroncina bassa m'aiutò a scaldarmi con la stessa comodità che se mi fossi seduto sul tappeto. I muri abbracciavano la stanza, separandola dal resto del mondo, e per accogliervi e racchiudervi ciò che occorreva a completarla, si facevano da parte davanti alla libreria, creavano una nicchia per il letto, a cui lati due colonne sorreggevano con leggerezza il cielo dell'alcova. E la camera era prolungata, nel senso della profondità, da due gabinetti altrettanto spaziosi, nel secondo dei quali, per profumare il raccoglimento che vi si viene a cercare, era appeso alle pareti un voluttuoso rosario di semi di giaggiolo. Se, ritirandomi in quel rifugio, lasciavo aperte le porte, queste non si limitavano a triplicarlo, senza con ciò sconvolgerne l'armonia, né a farmi gustare, dopo il piacere della concentrazione, quello dell'estensione, ma aggiungevano altresì al piacere della solitudine, che restava inviolabile perdendo ogni senso di oppressione, il sentimento della libertà. Questo gabinetto dava su una corte, bella solitaria, che fui felice d'avere per vicina quando, la mattina dopo, la scopersi prigioniera fra i suoi alti muri senza finestre, con la sola compagnia di due alberi ingialliti che bastavano ad arricchire di una dolcezza mauve la purezza del cielo. Prima di coricarmi, voglio uscire dalla camera per esplorare tutto il mio fiabesco dominio. Seguì una lunga galleria che mi fece via via omaggio di tutto ciò che poteva offrirmi nel caso che non avessi sonno. Una poltrona sistemata in un angolo, una spinetta, su una mensola un vaso di maiolica azzurra pieno di cinerarie e in una vecchia cornice il fantasma di una dama d'altri tempi con i capelli incipriati cosparsi di fiori azzurri e in mano un mazzo di garofani. Arrivato in fondo, un muro pieno nel quale non s'apriva alcuna porta mi disse con candore: «Adesso devi tornare indietro, ma lo vedi? Qui sei a casa tua». Mentre il soffice tappeto, per non essere da meno, aggiungeva che se quella notte non fossi riuscito a dormire, avrei potuto benissimo tornarmene lì a piedi nudi, che le finestre senza scuri affacciate sulla campagna avrebbero passato, ne stessi pure certo, la notte in bianco, e che a qualsiasi ora fossi venuto non c'era pericolo di svegliare nessuno. E dietro una tenda sorpresi un piccolo gabinetto che, fermato dal muro e non potendo scappare, si era nascosto in quell'angolo, mogio mogio, e mi guardava spaventato col suo occhio di bue inazzurrato dal chiaro di luna. Mi misi a letto, ma la presenza del piumino, delle colonnette, del camino, portando la mia attenzione a un livello cui a Parigi non era mai giunta, mi impedì di abbandonarmi al consueto tran tran delle mie fantasticherie. E poiché è questo particolare stato dell'attenzione a contenere in sé il sonno e a influenzarlo, a modificarlo, ad adeguarlo a questa o quella serie dei nostri ricordi, le immagini che, quella prima notte, riempirono i miei sogni furono improntate a una memoria affatto diversa da quella a cui il mio sonno ricorreva abitualmente. Se, dormendo, fossi stato tentato di farmi ritrascinare verso la mia solita memoria, il letto al quale non ero abituato, la dolce attenzione che dovevo prestare alle posizioni che assumevo voltandomi, erano sufficienti a rettificare o a mantenere il nuovo filo dei miei sogni. Succede col sonno come con la percezione del mondo esterno. Basta un'alterazione delle nostre abitudini per renderlo poetico. Basta che, mentre stavamo spogliandoci, ci siamo addormentati senza volerlo sul nostro letto, perché le dimensioni del sonno mutino e la sua bellezza si faccia sentire. Ci svegliamo, vediamo sull'orologio che sono le 4 e non sono che le 4 del mattino, ma è come se l'intera giornata fosse trascorsa, tanto quel sonno non voluto e durato pochi minuti c'è parso scendere dal cielo, in virtù d'un qualche diritto divino, enorme e rigonfio come l'aureo globo di un'insegna imperiale. Quel mattino stavo pensando con disappunto che il nonno era già pronto e che mi stavano aspettando per una passeggiata dalla parte di Meseglise, quando fui svegliato dalla fanfara di un reggimento che sarebbe passata ogni giorno sotto le mie finestre. Ma due o tre volte, e lo dico perché è impossibile descrivere efficacemente la vita degli uomini se non immergendola nel sonno da cui spunta ed è circondata, notte dopo notte, come una penisola dal mare, il mio sonno si interpose con tanta tenacia da sostenere l'urto della musica e non sentì nulla. Gli altri giorni cedette per un istante, ma la mia coscienza, ancora felpata dal sonno appena interrotto, come un organo preventivamente anestetizzato, cui una cauterizzazione, dapprima inavvertita, si rende sensibile soltanto alla fine, e come una lieve scottatura, era soavemente raggiunta dalle punte aguzze dei pifferi che l'accarezzavano con un vago e fresco bisbiglio mattutino. E dopo quella breve interruzione, durante la quale si era tradotto in musica, il silenzio riprendeva il sopravvento, assieme al mio sonno, prima ancora che i dragoni avessero finito di sfilare, sottraendomi gli ultimi luminosi zampilli di quel vivace bouquet sonoro. E la zona della mia coscienza, vellicata dai suoi steli più arditi, era così ristretta, così imbottita, tutto intorno di sonno, che più tardi, quando Saint Loup mi chiedeva se avessi sentito la musica, io non ero ben certo che il clangore della fanfara non fosse stato altrettanto immaginario quanto il suono che durante il giorno sentivo aleggiare ad ogni minimo rumore sui selciati della città. Forse non l'avevo udito che in sogno, per timore d'esserne svegliato, o al contrario di non esserlo e di non vedere la sfilata. Spesso, infatti, quando continuavo a dormire, nel momento in cui avevo supposto che il rumore mi avrebbe destato, per un'altra ora rimanevo convinto, pur sonnecchiando, di essere sveglio, e proiettavo a me stesso in tenui ombre, sullo schermo del mio sonno, i vari spettacoli cui esso mi impediva, ma io comunque mi illudevo di assistere. Ciò che si sarebbe fatto di giorno succede in effetti, col sopraggiungere del sonno, di compierlo soltanto in sogno, vale a dire, secondo l'inflessione dell'addormentamento, percorrendo una via diversa da quella che si sarebbe presa da svegli. La stessa storia fa un altro giro e finisce in un altro modo. Malgrado tutto, il mondo in cui si vive durante il sonno è talmente diverso che chi fatica ad addormentarsi cerca prima di tutto d'uscire dal mondo diurno. Dopo aver rigirato disperatamente, per ore, a occhi chiusi, pensieri simili a quelli che avremmo avuto ad occhi aperti, riprendiamo coraggio se ci accorgiamo che sull'attimo precedente è gravato il peso di un ragionamento in contraddizione formale con le leggi della logica e con l'evidenza del presente, giacché quella breve assenza significa che si è schiusa la porta attraverso la quale i pensieri potranno forse sottrarsi fulmineamente alla percezione del reale, andare a fare tappa più o meno lontano da esso, ciò che garantirà loro un sonno più o meno buono. Ma un gran passo è già fatto quando si voltano le spalle al reale, quando si raggiungono i primi antri dove le autosuggestioni preparano, come fattucchiere, l'infernale calderone delle malattie immaginarie o delle recrudescenze delle malattie nervose, e spiano l'ora in cui le crisi riaccumulate durante il sonno incosciente si scateneranno con violenza sufficiente a farlo cessare. Non lontano è il giardino riservato dove crescono come fiori ignoti i sonni così diversi l'uno dall'altro della datura, della canapa indiana, dei molteplici estratti dell'etere, il sonno della belladonna, dell'oppio, della valeriana, fiori ostinatamente chiusi fino al giorno in cui l'ignoto predestinato, toccandoli, farà sì che sboccino ed esalino per lunghe ore l'aroma dei loro sogni particolari in qualche creatura estasiata e stupita. In fondo al giardino è il convento dalle finestre spalancate, da dove si sentono ripetere le lezioni studiate prima ad addormentarsi e che si sapranno solo al risveglio. Mentre, presagio di quest'ultimo, risuona dentro di noi il ticchettio della sveglia interiore, regolata dalla nostra preoccupazione con tale esattezza che quando la nostra domestica verrà ad annunciarci «sono le 7», ci troverà già pronti ad alzarci. Alle oscure pareti della stanza affacciata sui sogni e dove lavora senza posa l'oblio dei dispiaceri amorosi, il cui compito, interrotto a volte e disfatto da un incubo fitto di reminiscenze, viene immediatamente ripreso, pendono, anche dopo il risveglio, i ricordi dei sogni, ma avvolti in così fitte tenebre che spesso li scorgiamo per la prima volta solo nel bel mezzo del pomeriggio, quando il raggio di un'idea similare va per caso a colpirli. Alcuni, armoniosamente chiari mentre dormivamo, sono già diventati così riconoscibili che nell'impossibilità di riconoscerli siamo costretti a restituirli in gran fretta alla terra, come cadaveri troppo rapidamente decomposti o come oggetti così gravemente danneggiati e quasi in polvere che nemmeno il più abile dei restauratori potrebbe ricostruirne una qualche forma o ricavarne alcunché.